Parte seconda, la rivoluzione. 1. Il primo tentativo. Le origini sono sconosciute. Su tutta la terra ci sono rovine di civiltà di cui non sappiamo nulla. Questi 60 secoli potrebbero essere stati un'età oscura. Forse un tempo tutti gli uomini e le donne sapevano di essere libere. Il nostro archivio di questa conoscenza inizia con un uomo. Non c'è alcuna prova storica che sia mai esistito. La storia mantiene questa verità autolegittimata. Inizia circa 4.000 anni fa. Le guerre di Kish e di Shipurla erano allora lontane come lo sono oggi le guerre tra Grecia e Persia. Ur era il centro dell'impero mondiale, antico quanto l'attuale Inghilterra. Gli Elamiti e gli Arabi attaccavano Ur e Babilonia. Era giovane a ovest. Quest'uomo viaggiò da Ur verso l'estremo occidente con suo padre, sua moglie e un nipote orfano. Erano pastori. Le loro greggi li facevano muovere sempre verso pascoli freschi. Quando Abramo morì molto vecchio, i suoi nipoti lo seppellirono nell'attuale Turchia. Aveva insegnato alla sua famiglia sempre crescente che gli uomini sono liberi. Allora si credeva che molti dei controllassero tutte le cose. Gli dei dell'acqua facevano scorrere l'acqua, gli dei dell'aria muovevano i venti, quelli che sussurravano agli alberi ruggivano nei tuoni o con la pioggia gentile innaffiavano i raccolti. Queste divinità richiedevano servizi agli uomini in determinati momenti. Il dio della fertilità doveva essere servito in primavera, altrimenti non avrebbe fatto germogliare i semi. Gli dei hanno sempre controllato ogni essere umano. Come l'acqua non poteva scorrere, né la pioggia cadere, né le piante crescere, così un uomo non poteva pensare, né sentire, né muoversi se non era controllato da un dio. 1500 anni dopo la morte di Abramo, un greco amò una donna. Solo perché un dio gli aveva scoccato una freccia avvelenata nel cuore. Questo piccolo dio del nostro San Valentino era reale per un greco. I greci erano sicuri dell'esistenza di questi dei, come gli americani sono sicuri dell'esistenza dell'elettricità. I greci logici potevano spiegare le azioni degli uomini solo supponendo che fossero gli dei folli a controllarle. Il padre degli dei, in preda a una rabbia insensata, ruggiva tuoni e scagliava fulmini. Gli dei e le dei litigavano stupidamente e usando gli uomini come armi scatenavano guerre. Si affacciavano invisibili sulle battaglie, scartando il giavellotto o conficcandolo nel corpo del nemico. Abramo disse che nessuno di questi dei esisteva. Disse che Dio è un unico creatore e giudice. Dio è il giusto, ha detto. Il giusto crea l'universo e giudica le azioni degli uomini. Come l'acqua giudica la rettitudine di un nuotatore nel nuotare, Dio giudica la rettitudine nel vivere. Ma Dio non controlla nessun uomo, disse Abramo. L'uomo controlla se stesso. È libero di fare il bene o il male davanti a Dio. Questa osservazione della realtà fece poca impressione sul mondo di allora. Dopo molte avventure, i numerosi discendenti di Abramo si recarono in Egitto per procurarsi il cibo durante una delle solite carestie. Sembra che siano diventati una classe ricca e altamente privilegiata, avendo un'influenza a corte con un parente intelligente che stava riducendo gli egiziani in schiavitù. Le generazioni divennero sempre più ricche, sempre più sicure e naturalmente non fecero obiezioni alla schiavitù, non era la loro schiavitù. Poi la vecchia, vecchia, infinita ripetizione si ripeté ancora una volta. Un uomo nuovo salì al potere dicendo, cito testualmente, i figli di Israele sono più numerosi e più forti di noi, andiamo, trattiamoli con giustizia. Gli egiziani oppressi si misero all'opera, afferrarono la sicurezza economica degli israeliti e cominciarono a liquidarli. Resero amara la loro vita con la dura schiavitù, con la malta, con il mattone, con ogni sorta di servizio nei campi. Tutto il loro servizio in cui li costringevano a servire era rigoroso. Li uccisero e uccisero i loro figli, aumentarono le loro privazioni finché il residuo di loro morì miseramente. Poi Mosè li salvò, li fece uscire dall'Egitto e attraversare il Mar Rosso vivi. 6 settimane dopo si rivoltarono contro di lui con amarezza, lamentandosi: Ci avete portato in questo deserto per ucciderci di fame. Non avrebbero fatto nulla per se stessi. Gli schiavi vengono nutriti, erano stati nutriti in Egitto. Ogni volta che Mosè non li nutriva, gridavano che li stava uccidendo. Ci si chiede come Mosè abbia potuto resistere per 40 lunghi anni. ripetutamente disse loro che erano responsabili per se stessi, che ognuno di loro era libero, che non potevano avere un dio o un re che li controllasse e fosse responsabile per loro. Cercava sempre di inculcare loro questo concetto nella testa: voi non mormorate contro di me, ma contro il dio di Abramo. I figli di Israele, infatti, mugugnavano sempre. Ogni volta che ne avevano la possibilità, creavano un dio pagano. E alla fine Mosè cedette fino a dare loro 10 comandamenti. Nessuno di questi comandamenti dice a una persona cosa fare. Sono delle negazioni rivolti alle motivazioni delle azioni di un individuo. Quando gli schiavi vogliono che il padrone dia loro degli ordini, cosa devono fare di un ordine come non desiderare i beni del tuo prossimo? 3 delle 10 proibiscono qualsiasi immagine, quadro o descrizione di Dio. Ogni individuo deve agire secondo la propria idea di rettitudine. Se si pensa al mondo pagano com'era nel periodo storico in cui solo gli israeliti possedevano questa verità, si vede che la loro conservazione è stata la grande conquista di tutta la storia. La lotta è andata avanti per secoli. Leader dopo leader, poeti, filosofi, guerrieri continuavano a insistere sul fatto dell'autocontrollo individuale, della libertà individuale. Gedeone era un guerriero, si alzò con quelli che lo circondavano e combatté magnificamente contro avversari schiaccianti. 135.000 madianiti contro di lui in una sola battaglia. Li sottomise in modo che non alzassero più la testa e il paese rimase tranquillo per 40 anni. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: governaci tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, perché ci hai liberati dalla mano di Madian. Si tratta di un appello non solo al conquistatore ma anche al padre, un'offerta di monarchia ereditaria. Chiunque creda che un sovrano abbia un vero potere accetterà questa offerta. Un uomo egoista lo vuole egoisticamente, un uomo altruista vuole usarlo per fare del bene agli altri. Gedeone disse loro: io non voglio regnare su di voi, né mio figlio regnerà su di voi, il Signore regnerà su di voi. Ma questo popolo, senza re, voleva sfuggire all'implacabile responsabilità della libertà. 100 anni dopo imploravano il saggio Samuele: facci un re che ci giudichi come tutte le altre nazioni. La cosa dispiacque a Samuele, che disse loro chiaramente cosa stavano chiedendo. Disse: così farai il re che regnerà su di voi, prenderà i vostri figli e li designerà per sé, per i suoi carri e per essere i suoi cavalieri, e alcuni correranno davanti ai suoi carri. Lo nominerà capitano di migliaia di persone e capitano di cinquantine di persone, lo incaricherà di mietere il suo terreno, di mietere il suo raccolto e di costruire i suoi strumenti di guerra. Prenderà i tuoi campi, i tuoi oliveti, anche i migliori. Prenderà la decima parte delle tue sementi e delle tue vigne. Prenderà la decima parte dei tuoi servi e delle tue serve e dei tuoi giovani più bravi li metterà al suo servizio. E in quel giorno allora griderete a causa di questo re che voi stessi avrete scelto. Ecco, un'affermazione precisa della fonte del potere di ogni governo e degli effetti del tentativo di ogni governo di controllare l'energia umana, sottrazione di energia alla produzione, spreco di energia nella burocrazia e nella guerra. Tuttavia il popolo di Israele si rifiutò di ascoltare Samuele e disse: no, ma noi vogliamo avere un re su di noi per essere come tutte le nazioni e che il nostro re vada davanti a noi e combatta le nostre battaglie. È impossibile esagerare l'importanza di questa rivelazione del fatto che gli uomini sono liberi. Il suo effetto finale sul mondo era destinato a essere formidabile. Questa visione della natura dell'uomo è scientifica, è un fatto osservato, testato dall'esperienza. Nonostante tutte le credenze pagane contrarie, l'uomo non L'essere umano non si comporta come un seme o come un insetto. È evidente che un uomo non è una cellula di una comune massa o di una classe o di una razza o dell'Italia immortale o della razza tedesca o della società o dello Stato o della monarchia o di qualsiasi altro sciame mistico che si possa immaginare. Ognuno sa di essere se stesso e di controllare i propri atti, anche se può credere che questo non sia vero per nessun altro. Ma la scoperta di Abramo non andò oltre. Egli affermò la natura dell'energia umana. Questa conoscenza è essenziale. Nessuno può vivere bene, in nessun modo, se non conosce la natura della propria energia. Ma questa conoscenza da sola non basta. Gli uomini hanno sempre saputo che il vapore solleva il coperchio di una pentola. La conoscenza non è utile finché qualcuno non escogita un metodo per usarlo, questo vapore. Per esempio, in un motore. Conoscere la natura dell'energia umana non è sufficiente, perché l'energia di una persona non è sufficiente né per preservare la sua vita né per renderla il tipo di vita che desidera. La sua energia deve essere combinata con quella degli altri. Deve conoscere un secondo fatto, e cioè che tutti gli esseri umani sono fratelli e sorelle. Rimane ancora un problema di metodo, il metodo con cui gli esseri umani possono agire secondo la loro vera natura e la loro fratellanza o sorellanza. I grandi capi degli israeliti non riuscirono nemmeno a dire loro che tutti gli uomini sono fratelli. Erano un gruppo molto piccolo, circondato da potenti imperi pagani: l'Egitto a sud, l'Armenia, la Persia, la Caldea, la Babilonia, la Siria a nord e a est e a ovest Roma. I giovani israeliti più promettenti si innamoravano sempre di ragazze pagane, le conquiste pagane li impressionavano tutti. Quando si vedono le incredibili mura di Baalbek o di Tadmor in rovina come sono ora, e persino con il ricordo delle torri di New York dietro le palpebre, si rimane ammutoliti. I semplici israeliti che vedevano queste città gigantesche nella loro magnificenza, che sovrastavano le loro popolazioni e i loro villaggi affollati, dovevano essere sbalorditi. Si sarebbero fusi umilmente con quelle moltitudini pagane se i loro uomini forti non si fossero messi di traverso e non li avessero respinti con minacce, dicendo loro che non erano come un altro popolo, che loro erano separati, erano scelti, erano il popolo eletto per conoscere la verità e mantenerla. Volevano essere come tutte le altre nazioni, ma per essere come tutti gli altri popoli dovevano dimenticare che gli esseri umani sono liberi. Questa è la verità che sostenevano, quindi ovviamente erano anarchici. E vissero e prosperarono per secoli senza alcun governo. Tutti sanno che l'anarchia è il rapporto naturale degli esseri umani e che funziona perfettamente. Padre e madre e i loro figli adulti andavano d'accordo con zii, zie e cugini e senza poliziotti. Se litigavano, risolvevano la questione tra di loro, in famiglia. Anche le esecuzioni non erano formali. La maggioranza agiva direttamente e uccideva il criminale con le pietre. Non avendo un governo, gli israeliti impiegavano le loro energie nella produzione, coltivando e raccogliendo i raccolti, curando le greggi e fabbricando vestiti e ripari. Ma la pura anarchia non può costruire città, né condurre un commercio estensivo, né sviluppare una produzione che vada oltre l'artigianato. Per queste attività è necessario un qualche tipo di organizzazione. Si tratta di un problema di metodo che gli israeliti non hanno nemmeno affrontato. Sono tornati alla sottomissione pagana e a un'autorità immaginaria. Fecero un re. Salomone costruì una città e un grande tempio, ampliò la loro industria e il loro commercio e sperperò le loro ricchezze in una vita dissoluta. E così divennero come le altre nazioni. Come le altre nazioni furono sconfitti in guerra, la loro città e il loro tempio furono distrutti, i loro conquistatori usarono la già allora antica usanza della deportazione di massa, ripresa poi in Europa dagli alleati nel 1924 e ora usata da Hitler, e lasciarono in Palestina meno di un quinto degli israeliti. Soggetti vassalli di Roma, i rimanenti in Giudea obbedivano servilmente ai loro sacerdoti. Eppure il suono di questa parola, Giudea, ha sempre allarmato il vecchio mondo. Oggi il popolo chiamato ebreo è letteralmente una razza di tutta l'umanità. Come gli americani non hanno un'ascendenza comune, né una religione o una filosofia politica comune, né un aspetto, abitudini, modi o costumi comuni. Non hanno una nazionalità né una lingua comune, hanno in comune solo una cosa, una tradizione. È la tradizione che hanno gli americani, un'eredità di uomini che un tempo affermavano contro il mondo intero, che gli uomini sono liberi. Il vecchio mondo teme gli ebrei. 4.000 anni fa, un ebreo disse che gli uomini sono liberi. 2.000 anni fa un ebreo predicò che gli uomini sono liberi. Nell'Europa medievale gli ebrei arrivarono dalla Spagna sapendo che gli uomini sono liberi. Questa conoscenza distruggerà l'intera concezione del vecchio mondo dell'universo e dell'uomo, farà crollare le fondamenta delle nazioni e degli stati del vecchio mondo e frantumerà le basi stesse della vita dei loro sudditi. Così hanno paura degli ebrei, li allontanano, li escludono, costruiscono mura intorno a loro, li uccidono. Le loro azioni dimostrano che hanno paura. Ogni attacco agli ebrei, dall'esclusione dalle università pubbliche di questo paese ai ghetti, ai massacri di oggi in Polonia, sono atti di uomini che hanno paura. E chi guida questi attacchi? Un tiranno. Ovunque la tirannia sia più forte, Nella Spagna del XV secolo, nella Russia zarista, nella Germania nazista, gli attacchi contro gli ebrei sono più spietatamente atroci. In tutto il vecchio mondo, da 2000 anni a questa parte, si è scatenato l'odio contro gli ebrei, e sempre l'odio che nasce dalla paura, e sempre, ogni volta, in ogni caso, è iniziato e alimentato da uomini che hanno paura di sapere che gli uomini sono liberi. Cristo non è venuto a portare la pace, ma una spada che avrebbe distrutto i regni. Ancora e ancora, in sermoni, parabole e atti, Cristo ha detto che tutti gli uomini sono liberi. Attaccò i sacerdoti e li cacciò dal tempio, si fece beffe del loro preteso controllo e infranse apertamente con ostentazione le loro leggi. Disse che l'intera legge dipendeva dalla verità insegnata dai profeti. Aggiunse la verità che tutti gli uomini sono fratelli. Moltitudini seguirono Cristo, ma non capirono. Pensavano di seguire un re dei giudei che li avrebbe guidati nella rivolta contro Roma e avrebbe stabilito di nuovo il regno che Gedeone aveva rifiutato e Salomone aveva accettato. Storicamente i tempi erano maturi per una rivolta nel vicino Oriente. Da un'alta montagna si legge: Cristo vide i regni del mondo e li rifiutò. E se fosse stato un fatto storico che un uomo fosse venuto dalla Palestina per essere l'imperatore di Roma, quale potere effettivo avrebbe avuto? L'imperatore non aveva altro che l'uso della forza, che può ostacolare e limitare l'energia individuale che fa il mondo umano, ma non può controllarla e usarla. L'artefice del destino umano è l'individuo. Qui, all'interno di ogni uomo e donna vivente, si trova l'energia autocontrollata che crea questo mondo umano. Ogni persona ha la responsabilità di ciò che è questo mondo. Così Cristo ha parlato all'individuo. Ha parlato del Dio di Abramo, il Dio che è rettitudine e non controlla nessuno, ma giudica le azioni di ogni uomo. Ogni meccanico non sa che questo è vero fino nei minimi dettagli? C'è qualcosa che funziona, c'è un'azione che ha successo che non è conforme alla vera natura delle cose? Cristo ha parlato della vera natura degli esseri umani, della libertà, della responsabilità, della dignità e del potere dell'individuo. Chiunque dica a questo monte sii rimosso, e non dubiti in cuor suo, avrà ciò che dice. I miti erediteranno la terra. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, perché tuo è il regno. Quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Quanto è difficile per gli uomini che confidano nelle illusioni vedere questo fatto. Ha parlato della fratellanza dell'uomo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. 3 secoli dopo l'esecuzione di Cristo, la pace mondiale romana si era dissolta nella miseria umana creata dalla sua economia pianificata, e la Chiesa cristiana era un potere crescente i cui leader credevano di controllare persino i pensieri degli uomini. 2. Il secondo tentativo. Circa 1200 anni fa, un uomo d'affari che si era fatto da sé iniziò il secondo tentativo di affermare la libertà individuale negli affari pratici. Quell'uomo è una figura storica, solida come George Washington. Era un orfano di buona famiglia, ma defraudato della sua eredità. Da bambino, scalzo, cencioso, affamato, lavorava 16 o 18 ore al giorno e dormiva sulla nuda terra sotto il cielo. Non aveva alcuna istruzione scolastica, ma aveva capacità e ha fatto carriera. Alla mezza età era un dirigente molto pagato, molto conosciuto e rispettato. Viaggiò comprando e vendendo merci in gran parte del mondo civilizzato. Babilonia era ormai dimenticata e l'impero romano aveva cessato di esistere. Da 300 anni Costantinopoli era il centro del mondo. Le città moderne più fiorenti erano Baghdad, Damasco, Antiochia, Alessandria. Per capire quest'uomo, pensate a un dirigente d'azienda esperto di oggi, pratico, sagace, spiritoso, amichevole, che non sia uno stupido, un uomo che guadagna ad esempio 25.000 dollari all'anno, un successo sufficiente ma non spettacolare, confortevolmente benestante, anche se non ricchissimo. Sposa la sua datrice di lavoro, una donna d'affari di talento, e si ritirano a vivere a Coral Gables, in Florida. Lui e sua moglie servivano spesso il caffè ai loro amici. L'intrattenimento era la conversazione. Le opinioni del padrone di casa erano così radicali che per circa 3 anni usò prudenza nell'esprimerle, ma a poco le espresse più pubblicamente e le discussioni iniziate nel suo salotto si diffusero in tutta la città. Era d'accordo con Abramo. Esiste un solo Dio che non controlla gli uomini. Ogni individuo è autocontrollato e responsabile. Gli dei pagani non esistono. Quest'idea creò una grande eccitazione poiché Maometto, questo è il nome dell'uomo, la stava esprimendo alla Mecca, il santuario delle più rinomate divinità pagane. Il più grande di questi era la strana, pesante pietra nera che si sapeva essere scesa dal cielo. I pellegrini venivano da tutto il mondo per venerarla e i poeti più famosi esponevano le loro poesie nella Kaaba che la custodiva. La Mecca viveva di pellegrini, come Miami vive di turisti. Gli abitanti della Mecca non erano semplicemente infuriati per la blasfemia di Maometto, essa li colpiva dove vivevano e continuò a dire quello che pensava lui. Non esiste un tipo di uomo superiore, gli uomini sono umanamente tutti uguali, l'imperatore non ha alcun potere effettivo su nessuno. Secondo l'osservazione e la convinzione di Maometto, nemmeno un sacerdote è più santo o più potente di qualsiasi altro uomo. I sacerdoti lanciarono su di lui le loro maledizioni più forti, ma queste non ebbero alcun effetto. Maometto disse che alcuni uomini sono profeti. I più grandi, secondo lui, furono Abramo, Mosè e Cristo. Non è opportuno che Dio abbia un figlio, Dio non lo vuole. Dio è il creatore, costantemente creativo. Quando decreta una cosa, le dice soltanto sì, ed essa è. Il suo punto di vista era che i sacerdoti avevano corrotto l'insegnamento di Abramo. Quando si presero l'autorità di governare i giudei, Cristo attaccò i sacerdoti e riaffermò la verità, ma i sacerdoti cattolici e greci hanno ora corrotto l'insegnamento di Cristo rivendicando l'autorità di controllare i cristiani. Questo dimostra, secondo lui, che l'organizzazione è malvagia. Non ci dovrebbero essere sacerdoti. Ogni individuo deve riconoscere il suo rapporto diretto con Dio, il suo autocontrollo, la sua responsabilità personale. Un numero crescente di persone lo fece. I sacerdoti stessi avevano fatto della Mecca un santuario. Nessun sangue poteva essere versato lì. Potevano solo rendere la vita di questi eretici così miserabile da indurli a lasciare la Mecca. Le idee di Maometto si diffusero in lungo e in largo. Gli uomini venivano alla Mecca solo per ascoltarlo. Medina, a 200 miglia di distanza, gli chiese di venire come emiro. Maometto prudentemente tenne in serbo questa offerta, continuò a parlare alla Mecca. Dicono: diventate ebrei o cristiani per essere indirizzati. No, noi seguiamo la religione di Abramo, l'ortodosso, che non era un idolatra. Di certo gli stessi dei non potevano sopportarlo. I cittadini più rispettabili della Mecca, un uomo per ogni famiglia che si era macchiato di un'uguale colpa, estrassero i loro coltelli per versare il sangue di Maometto nel sacro santuario. Presero d'assalto la casa di Maometto, egli era appena uscito, senza confusione. Si mise sulle tracce del sud. Sulle sue tracce arrivarono gli abitanti della Mecca, ma senza lasciare tracce, Maometto si dirigeva a nord, verso Medina. Piccola città immersa nei palmeti, Medina viveva soprattutto del raccolto dei datteri e di qualche gregge di pecore e capre. La strada dei pellegrini passava di lì. L'arrivo di Maometto fece una grande differenza. Lui e i suoi compagni di Mecca bloccarono una ricca carovana appartenente ai suoi aspiranti assassini e portarono con sé un immenso bottino. Un numero crescente di pellegrini si fermò a Medina e Maometto li convertì alla convinzione che esiste un solo Dio e che non ci sono divinità nella Kaaba alla Mecca. Le entrate della Mecca furono tagliate alla radice. La città cadde nella peggiore depressione della sua storia. Gli abitanti della Mecca capirono che non potevano vivere nello stesso mondo con l'ideologia di Maometto. Si prepararono industriosamente alla guerra e si misero a distruggere Medina. Una voce terrificante del loro avvicinamento li precedeva. Montati e ben armati, lance, spadaccini e arcieri superavano di gran lunga la popolazione totale della piccola città neonata. In silenzio, prima dell'alba, si avvicinarono. Medina dormiva tranquillamente tra i palmeti. Urlando un grido di guerra, gli abitanti della Mecca caricarono furiosamente contro le raffiche di frecce che disturbarono la carica. I sopravvissuti si tirarono fuori dalla massa di cavalli e uomini caduti. A Medina non si udì alcun suono né alcuno scalpore, non si vide alcun difensore. Non si era mai visto nulla di simile prima di allora. Maometto aveva inventato la guerra di trincea, aveva sistemato gli uomini di Medina in trincee, disposte a raggiera intorno alla città. Caricare in una trincea era un suicidio, saltarla significava essere circondati, le raffiche di frecce erano inutili, arrivavano solo a terra. I soldati della Mecca fecero dietro front e si consultarono e continuarono a consultarsi e galopparono furiosamente indietro davanti alle trincee, urlando insulti, sfidando gli uomini di Medina a uscire e a combattere da uomini, ma nessuno lo fece. Questo andò avanti per giorni. Medina aveva abbondanti provviste, mentre quelli della Mecca mangiarono tutte le loro e alla fine, incapaci di pensare a qualcos'altro da fare, tornarono indietro verso la Mecca, a 200 miglia di distanza. La notizia della loro guerra non combattuta arrivò senza dubbio prima di loro. Certamente viaggiò veloce come i cammelli. In tutti i bazar dell'India, della Persia, dell'Arabia, di Bisanzio, della Palestina, di tutta l'Africa settentrionale e di tutte le oasi del Sahara. È il tipo di notizia che nessuno dimentica di raccontare. Gli storici non sono mai riusciti a spiegare la forza formidabile di questa semplice affermazione di Maometto. Hilaire Belloc dice con disgusto che è sorta dal nulla, dalle sabbie calde a est, e si è diffusa come un incendio. Carlyle si meraviglia come se una scintilla fosse caduta, una sola scintilla su quello che sembrava un mondo di sabbia nera e impercettibile, ma ecco che la sabbia diventa polvere esplosiva e divampa da Delhi a Granada. La consapevolezza che gli uomini sono liberi attraversò il mondo conosciuto con la stessa rapidità con cui gli americani attraversarono questo continente. Maometto rimase altri 6 anni a Medina, poi si recò alla Mecca come pellegrino pacifico alla guida di 30.000 uomini validi e ben armati. Una deputazione lo incontrò fuori dalla Mecca e lo accolse nella città santa, un santuario. Gli abitanti della Mecca accettarono le sue idee e non fecero obiezioni quando rimosse gli idoli dalla Caaba. Non usate la violenza nella religione, disse. Combattete per la religione di Dio contro coloro che vi combattono, ma non trasgredite attaccandoli per primi. 2 anni dopo morì. Aveva combattuto e vinto 2 grandi battaglie. Tutte le tribù dell'Arabia, dal Mar Rosso all'Eufrate, dichiararono che gli uomini sono liberi, ma che esiste un solo Dio e che Maometto era uno dei profeti. In 80 anni il mondo era musulmano dall'Oceano Indiano all'Atlantico. Il Mediterraneo era un lago musulmano e la porta occidentale del mondo conosciuto aveva un nuovo nome arabo, Gibilterra. Poi arrivò il primo grande sforzo creativo dell'energia umana. Creò la prima civiltà scientifica. Le scuole americane insegnarono ai bambini americani il passato europeo, la Grecia pagana e la Roma pagana, la trasformazione dell'impero in chiesa durante il Medioevo, il Rinascimento, il Medioevo, i re e i baroni, la riforma, l'Europa moderna, l'ascesa della classe capitalista, la rivolta delle masse. Questa è l'Europa. Durante la stagnazione dell'Europa, che viene chiamata Medioevo, il mondo era in realtà illuminato da una civiltà energica e brillante, più simile a quella americana e più feconda oggi per tutti gli esseri viventi di qualsiasi altra del passato. Milioni e milioni di esseri umani, 30 generazioni, credendo che tutti gli uomini fossero uguali e liberi, crearono quella civiltà e continuarono a crearla per 800 anni. A loro il mondo deve la scienza moderna, la matematica, l'astronomia, la navigazione, la medicina, la chirurgia moderna, l'agricoltura scientifica. A loro il mondo deve direttamente la scoperta e l'esplorazione dell'America. Questi uomini erano di tutte le razze, colori e classi, di tutte le culture precedenti e di molte religioni. Non erano affatto tutti musulmani. Erano ex sudditi o discendenti di sudditi di tutti i precedenti imperi. Non esiste un nome che valga per tutti gli europei, li chiamavano saraceni. Le testimonianze degli 800 anni della loro civiltà, delle sue istituzioni e delle cause del suo crollo sono in gran parte chiuse nella lingua araba, poiché gli studiosi e gli intellettuali americani in generale hanno una mentalità europea. Un americano può avere solo scorci del mondo saraceno, visto attraverso l'indifferenza e l'odio europeo.